6 canciones para empezar el día. Bienvenidos al episodio número 525 de las 6 de la mañana. Hola, mi nombre es Pepe Barrascut y desde Guatemala les presento 6 canciones para iniciar el día. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con mucha energía y positivismo este nuevo día. La selección musical de hoy ha sido especialmente formulada para que nuestro día empiece con mucha energía y de forma positiva. Los dejo con la selección musical de hoy, que la disfruten. Vasă solo mare ricreanță un calor de sud tutte li mindu core chama wanyu na chama na nanz na na ser un terrorista terror rebel sound chama mo ha ha cash rules everything around me green get the money dollar dollar bill yo chama faccio questo stile rilassato molto riso na na stone e come chama na nanz ci chissà quanta cana che accomanna nel fascia nella babuffa e nu che sta paranza facimi con da tutto di fresce la da menica e da che menzulli di problema stanno a tutti vanno dota giro e dota volta ci non capisce buono mo tu dica un'altra volta la forza se vacanda non facimo moni moni ci sta palla e ci sta canda ogni una brita lecchia da fuori fascia fredda udic che stavolta udic sopo beat è mit che tu potrai gridare potrai fare tutto quello che vuoi ma se sta situazione non ci cangia proprio mai niente di un gap che ho ricca mossa cura che come tutta gira chi da tua mano non gula mangi si panzanna piuttosto mo fai una e vide ci fai puna che si è la soluzione come una rivoluzione momento sta canzone e pamba pu voluma pure senza terrisa gli socco papà buna money money money mo terrisa non è sogno zero dollar bill zero euro zero pound money money money fili shiny microphone we don't need no money but just zero rebel sound cash fools everything around me green get the money dollar dollar bill yo cash fools everything around me green get the money dollar dollar bill yo senza soldi ma rimasti ancora là da capire ti bill tesorette tutta danza in tu parlare stipendi esorbitanti di deputato senatori e l'uresto degli cristiani va mendicando a tutte le ore non c'è più una lira sento tiri di villani li vidi casi con un po' ci messo vacanti qui di mani ha ragione Uba the reason on the stone sta facimo la fame non mi pondi microfono ha spingiato i tunisi non stai manco a mezzumesimo vuoi pitica la colpa non travote di la crisi ma quale crisi è crisi la questione è molto easy le vizi ti sta mangiano senza occupati a spesi lascia fotti ripretesi innanzi consentito frisi con lui io no bevino e pomitori di li pesi di la panza lascia pesi e palestre si costosi fatti una bella fuciuta di Lichiane e Lumartesi calorosi oggi sposi cadi nenchio non li chiesi bello si un sacramento ma la pila sta alla base i ristoranti si lussuosi non son tu peccaminosi tanto più perdona tutti di li preda di mafiosi notti mia tutti sta busi niti capo pisti cosi ci la voce poi si rompi noi è facili confusi vanni chia non balli scesi raci no tutti li musi tacchi con lo culo in terra ci la capo non la usi money money money moto risa non è sogno zero dollar bill zero euro zero pound money money money fili shiny microphone we don't need no money but just zero rebel sound risa non è stone dollar non è stone money non è stone do la senuta cash fools everything around me cream get the money dollar dollar bill yo cash fools everything around me cream get the money dollar dollar bill yo cash fools everything around me cream get the money dollar dollar bill yo cash fools everything around me cream get the money dollar dollar bill yo Quelle cambiate chi non rivuole i suoi soldi che può fare? Ci devo guardare non lo sapevo come appiccerito mi deve 20 dollari aspettalo con la mazza da mezzo gonfialo due volte spaccagli la testa che non lo sai gonfiare sono questi i consigli che gli date la volete piantare brutte gorille allora daglielo tu qualche buon consiglio fallo svegliare un po' mangiare. Non restare a sentire io vado a mangiare da Gino buon salute che succede? C'è quell'urna, hai visto? Che mi deve 20 dollari, sono due settimane e ogni volta che mi vede cerca di scappare. Sì? Cominciano a girarmi le palle, gli do una lezione, che dici? Ma che t'è preso? Cos'è che ti dico sempre? Fare del male non è una soluzione. Prima di tutto, amico tu? No, mi sta antipatico. Ti sta antipatico? Beh, eccola qui la risposta. Con 20 dollari te lo sei levato da torto. Giusto? Così non ti dà più fastidio. Non ti chiede più un prestito. È uscito dalla tua vita con 20 dollari, è un affare. Tu hai sempre ragione. Oh yes! Introducing yourself, my brother from Marugia. Brothers and sisters, ribellino. Yes, faccio bagnoli, questa danza d'annata. Si chiamo a cantare a chi una sciottata cagata. La folla nella danza malata. Musicanti d'eccezione dell'orchestra trampata. Yes, faccio bagnoli, questa danza d'annata. Si chiamo a cantare a chi una sciottata cagata. La folla nella danza malata. Musicanti d'eccezione dell'orchestra trampata. Senti me bueno e me senti saru saru. Senti cucu canta tu, cazzo de me saru. Senti me bueno e me senti saru saru. Senti cucu canta tu, cazzo de me saru. Tra la terra di Sturzo, come hanno villano. Sopra tu e noi ogni giorno lo meglio noi damo. C'è facciamo i divertimento, balliamo e lo cantiamo. Sempre più convinti di tutto che buttiamo. Sono tu convinto, questa musica è malata. I cemi rende la vita meno complicata. Insieme a non fosche doppia pelle, la negra mura giornata. Penso mi ero cantavo un'età inammazzata. E l'età è la forza di campare, la forza di gridare le verità mondiali. In questo mondo di cazzo non si può più stare. Ma la musica ne facci continuare. Questo è il sound del meridione, LL Ribellino canta storie della situazione. Ti diamo il buon umore in questa era del terrore. Figli del mezzogiorno, li sballiamo a tutto tondo. Finché gira pure il mondo e l'estate ci si ritrova a ricordare come si faceva. Quando da piccoli ancora non ci si capiva, ma si cresceva e tanto arriva Cuscu. Cadreto, credo, scalzi, calo, fuego. Lo stimola, salizza, ci la chimica si ozza. Stappamo una birrozza, poi strabucamo e ci si ozza. Piccia, pensa alla PlayStation. LL versus Ribellino, just my imagination. TRS ma la lingua Marugio Manuglia. Siamo noi la giungla della Puglia. Unisciti anche tu a questa famiglia. Questo è il ritmo che ti piglia un altro round. Per chi picchia fuma finché non ti consuma. Yes, faccio bagnoli, questa danza dannata. Si chiamo a cantare anche una giornata cagata. La folla nella danza malata. Musicanti di eccezione dell'orchestra trampata. Yes, faccio bagnoli, questa danza dannata. Si chiamo a cantare anche una giornata cagata. La folla nella danza malata. Musicanti di eccezione dell'orchestra trapalata. Amici mia voglia ora salo. Tutti con un culto. Faccio fai sto sopra la tua colma. Lo grido su a me fai pazzi la capo. E di tutto grido malato. Calo tu alla grancia sta a passare. Palo ottavo da non ci sbaglio. Con di cronometro voglia saluto. Con calore pure le amici su a lui. Palo fraco capo. Anna faccio di cacciolo. Sento un mo' l'orecchi. Anna studi e stunamo. Ni tutti questi critica. Studi cani stono la capo. Non sta del sol. E per la cannabis facciamo di cannabis. Con le dita in segno di peace facciamo di cannabis. No fish, no cheese, fumo ganja e hashish. Giocando il mio cervello a ragionare come un photo finish. Non voglio una vita spericolata come Vasco Rossi. Voglio una vita sballata ed impregnata di rischi. E se spuntano la saggezza spacciata dei tuoi dischi, vai tranquillo, non esisti. Io non pretendo applausi da nessuno. Per questo ogni mio testo rappresenta un vaffanculo. Per tutti quelli che mi vogliono spalle al muro. Fotti con me, fotti col muso più duro. Yes, faccio bagnoli, questa danza dannata. Si chiamo a cantare anche una giornata cagata. La folla nella danza malata. Musicanti di eccezione dell'orchestra trampata. Yes, faccio bagnoli, questa danza dannata. Si chiamo a cantare anche una giornata cagata. La folla nella danza malata. Musicanti di eccezione dell'orchestra trampata. In diretta vai Grazioli, senti sti bagnoni di la terra di Lusoli. Comodo gli animi di la musica. Tua voce in cana traccia. Siamo ciò che siamo, zero interfaccia. Yes, faccio bagnoli, questa danza dannata. Si chiamo a cantare anche una giornata cagata. La folla nella danza malata. Musicanti di eccezione dell'orchestra trampata. Yes, faccio bagnoli, questa danza dannata. Si chiamo a cantare anche una giornata cagata. La folla nella danza malata. Musicanti di eccezione dell'orchestra trampata. Give me eight minutes. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con energía y positivismo cada nuevo día. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que la selección de hoy haya sido de tu agrado. Puedes dejar tus comentarios en quechilero.com/blog. Que tengas buen día hasta la próxima emisión, cuando nos escuchemos a las 6 de la mañana.